Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 30. Il Parzuf Galgalta è Keter de Keter, Chochmah de Keter, Pinah de Keter, Zeiran Pin de Keter e Malchut de Keter. Dei più alti punti di forza. Il prossimo parzuf è Chochmah, Ab. Chochmah ha anche 10 e 5 sferot, Keter de Chochmah, Chochmah de Chochmah, Binah de Chochmah. Zeiran Pin del Chochmah e Malchut del Chochmah. Questo parzuf è chiamato Ab. Che cosa significa Chochmah? Chochmah significa saggezza. Keter è la corona. Keter non ha corpo. Keter è così sottile, così raffinato, che è esterno all'essere, fuori della creazione. È una parte della creazione e allo stesso tempo è fuori della creazione. Vedi Keter come una radice. Era un seme dove tutto il potenziale è all'interno. Ma non possiamo vederlo. La prossima fase è Chochmah saggezza. Chochmah è la luce della saggezza. In un certo senso è dove tutti noi prendiamo la nostra forza. Lei è la luce, lei ha la luce di creazione. Chochmah, saggezza seguita da Binah, intuito. Binah è intuito. Comprensione, intuizione. Zeiran Pin ha qualcosa da Binah, qualcosa da Malchut. Zeiran Pin è nel mezzo. Binah è la femmina e ha la qualità di dare. Lei vuole solo dare e non ricevere. Non è interessata alla luce di Chochmah. Lei ha abbastanza a Chassadin. Zeiran Pin e Malchut sono qui bambini. Zeiran Pin è la forza maschile, la forza che trasmette, e Malchut è la forza femminile. Quindi lei ha anche la lettera E proprio come Binah. Malchut è la E inferiore del nome Havaya e Binah la Hei superiore sempre dello stesso nome. Puoi vedere Binah come madre. Ma Binah non ha bisogno della luce di Chochmah. Chochmah è il padre, la saggezza, e Binah è intuito. Lei è l'intuizione della madre. Prova a vedere tutti questi sferot come una famiglia santa. Sperimentali come una famiglia, guarda le relazioni tra loro. Le relazioni tra loro. In un certo senso questa è la nostra famiglia divina. Ma non sono al di fuori di te, da qualche parte in cielo, ma esistono dentro di te, in ognuno di noi. Zirampin è il figlio e Malchut è la figlia. E loro, Zirampin e Malchut, hanno bisogno della luce di Chokmah. Perché? Più in basso giungi, più pesanti sono i chili. Pesante significa più rozzo. E quando qualcosa è più rozzo, ha bisogno di una luce più forte. Più sono pesanti i kelim, maggiore è la luce che tu hai bisogno. E Binah è prossima a Chokmah. Lei non ha bisogno di lui. Lei è ancora molto luminosa, molto alta. Lei è ancora nelle regioni elevate. Per sé, lei non ha bisogno di Chokmah, solo quando i suoi figli Zeirampin e Malchut chiedono per questa luce. Solo allora Binah si rivolge a Chokmah e gli chiede un po' di luce. Ma la luce non è per lei, è per i suoi figli. Lei ha abbastanza Chokmah, ma abbastanza della forza maschile di Chokmah, ma non è per lei. Questa è la relazione della famiglia superiore. Questo è come il creatore l'ha creato. Chokmah è l'elemento maschile perché riceve tutta la luce necessaria per la creazione. Binah è l'elemento femminile e solo quando c'è il maschio e la femmina, qualcosa può venire fuori. Lo stesso qui sulla terra, non c'è differenza. Entrambi sono creati ed entrambi sono immutabili, sono sempre in armonia e sono sempre in integrità. Cosa significa questa integrità? Loro hanno sempre zivug l'un con l'altro. Sono in un continuo amore per l'un l'altro. Questo è perché non hanno bisogno di nulla, bisogno di nulla. Ricevono ovunque loro sono. Ma considerando Zeirampin e Malchut è diverso. Sono creati con un'apparente carenza. E naturalmente c'è carenza considerando il peccato del primo uomo Adam. Questo è stato un peccato immenso. In Israele ci sono colleghi che dicono che il peccato di Adam era già nel piano del Creatore. Insegnanti che dicono così, insegnanti di Kabbalah. L'essere umano l'ha dovuto subire, ma questo non l'ho letto da nessuna parte. Non era nell'intenzione del Creatore che noi dovremmo soffrire per 6.000 anni. L'intenzione era che l'avremmo finito. Non pensare quando leggi 6.000 anni, riguarda gli anni come noi li conosciamo. Adam doveva aspettare fino al settimo giorno della creazione, il giorno di Shabbat. In questo giorno la luce dovrebbe venire, la piena luce. Cosa significa questo? Il maschio e la femmina, Adam e Hava, raggiungono l'interezza. E hanno la stessa relazione come le forze superiori, come Chokhmah e Binah. E in un certo modo ogni cosa sarebbe stato realizzato. Il peccato di Adamo era enorme. E ora ogni generazione ha la possibilità di finirlo. Correggere quel che era sbagliato. E alla fine, dopo la correzione finale, dopo 6.000 anni o correzioni, la forza del Messia, Mashiach, arriverà. Proprio come abbiamo al giorno d'oggi la forza delle quattro lettere del nome Havaya. Questo nome è stato dato alla generazione 26 e rivelato a Mosè. E ora sperimentiamo la rivelazione qui nella Kabbalah. Siamo i destinatari e noi possiamo trasmetterlo. Abbiamo la possibilità di connetterci con il Creatore. Ogni persona può elevarsi e andare al suo obiettivo finale. Ma tutto dipende da te. Dal tuo sforzo individuale, dalla qualità del tuo sforzo. La qualità, l'intensità, e puoi venire di persona alla tua correzione finale. Non devi aspettare che i 6.000 anni siano passati. Come ho detto prima, non pensare agli anni del calendario, ma in qualche modo c'è qualche similarità. I 6.000 anni di correzione sono simili ai 6.000 anni del calendario ebraico. ma il peccato di Adam era così enorme. Nessuno può correggersi completamente fino all'arrivo del Mashiach. Questo è qualcosa di diverso da come l'hai sentito prima. Tutta la miseria non è necessaria a correggere ogni cosa. Fai correzioni nelle cose che devi correggere. Questo è abbastanza per voi per sperimentare l'interezza, sebbene il peccato non sia completamente purificato. Chochma e Binah sono sempre in completa interezza, in uno eterno zivug. In un zivug non pasik, nell'ebraico, non stop zivug. In un rapporto assoluto. Il loro amore è completo. E sono in perfetta armonia. L'amore è unità. Non c'è altro amore, è unità. Amore significa unità. In confronto con Serapin e Malchut, loro non hanno questa situazione. E noi siamo di sotto la Malchut. Siamo la prole di Malchut e dobbiamo imparare tutte le prescrizioni e dobbiamo fare le buone azioni. Noi siamo i soli che dobbiamo dare man alla Malchut. E Malchut, che ha la mancanza, si connette con suo marito Zeirampi. Vedi le Sferot come una famiglia santa. Quindi puoi capire un po' come la relazione è nella famiglia divina. Insieme il Zeir Anpin e Malchut vanno a Binah perché Binah è l'unica che può dare a loro. Ma Adam si è allontanato da Chochmah. In che modo? Lo impareremo. Per ora è sufficiente per te conoscere i principi. Solo il come e che cosa è ora abbastanza per te. Solo dopo puoi colmare il perché. E Binah, che aveva ricevuto la richiesta del loro figlio, va a Chochmah. Si torna a Chochmah. Chochmah, che ha tutta la forza, dà a lei la forza, il seme. Cosa significa la parola seme? Binah riceve il seme femminile, o in altre parole, le acque femminili. No, è sbagliato. Binah riceve il seme maschile. Correggere nel testo. Binah riceve il seme femminile. Né, femminile no. Binah riceve il seme femminile. Binah dà il seme femminile nella sua preghiera. nella sua domanda. A Chochmah. Ma dopodiché Binah riceve dalla Chochmah il seme maschile. O in altre parole, le acque maschili. Mad. E per mezzo di questo ricevimento, nel suo grembo cresce un frutto o il frutto spirituale. Questo frutto spirituale è in conformità con la mancanza, con la richiesta di qualcuno qui sulla terra che aveva portato la mancanza al di sopra. E questa richiesta rimane nella sua pancia per 9 mesi. Per 9 mesi, 7 mesi o 12 mesi, a seconda dell'anima che sta per nascere. Quando il tempo è maturo, il frutto esce dalla Binah seguita da uno stadio di alimentazione spirituale. Proprio come un neonato beve dal seno della madre, così questa alimentazione è anche soffice e fluida. Come questo avviene, te lo spiegherò più tardi. Ma per ora è sufficiente conoscere la fase di alimentazione con il seno come sviluppo spirituale del Kli. E quando questo stadio è completato, un altro tipo di alimentazione avviene proprio come nel nostro mondo. Quando il bambino cresce, lo alimentiamo con altri alimenti come pane e verdure. 2 anni di alimentazione e 7 anni. E altri 3 anni fino a diventare 12. 12 per la femmina e 13 per il maschio. Qui è non sufficiente. Tradotto non chiaro. È avere ancora più forza. Poi raggiunge l'età di 20 anni e diventa anche un adulto. Ora è pronto e può avere anche figli, nel senso di dare l'opportunità alle nuove anime di venire qui e fare le loro proprie correzioni. Ci segue una schema nel libro. Questo leggi da solo. Andiamo avanti. Avanti. Lezione 22. È scritto: colui che dà sarà dato, e colui che non dà le saranno portate via anche le cose che lui non doveva e intendeva dare. Questo è molto diverso da colui che ha sarà dato e colui che non lo ha sarà tolto. Quest'ultimo non erano le parole del profeta. È scritto in questo modo perché in quei giorni non potevano capire che quando qualcuno dà, avrebbe ricevuto di più. Questo non era logico per loro. Perciò hanno cambiato questa frase e detto colui che ha sarà dato. C'è una storia su un grande re. Il re aveva intenzione di viaggiare e prima di andarsene chiamò tutti i suoi cavalieri e regalò a ogni cavaliere una moneta. Quando il re tornò, chiamò i suoi cavalieri e gli dissero cosa avevano fatto con la moneta. C'era un cavaliere che disse di averne fatto 15 monete e un altro cavaliere disse di averne fatto 10 monete. Ma c'era anche un cavaliere che disse al re che aveva nascosto la moneta nel terreno. All'ultimo fu portato via e loro che avevano fatto più di lui ricevettero di più. Naturalmente in questa piccola storia è una lezione molto saggia. Viene dal verso. Colui che dà, a lui sarà dato. Questo è difficile da capire. Non c'è logica. Quando tu dai, tu hai meno. Questo è il nostro pensiero. Com'è possibile? Ti mostro il perché. E il come. Quando io do, le cose saranno date a me. Colui che dà, a lui sarà dato. Pertanto è molto saggio dare. Ti ho detto che la vera conoscenza è avere la giusta intenzione in quello che fai. Riguarda l'intenzione. Quando dai qualcosa senza la giusta intenzione, non puoi chiamarlo dare. Supponi che io ti doni qualcosa, ma in cambio ti aspetto qualcosa di ritorno. Questo è quel che intendo con non ho la giusta intenzione. Questo è quel che devi imparare passo dopo passo. È difficile. Accettare. Lasciami fare un esempio. Il tuo bambino sta giocando con un altro bambino e tu dici al tuo bambino: lascialo giocare con il tuo giocattolo. Il tuo bambino ti obbedisce. e gli dà il suo giocattolo. Ma questo non è ciò che intendo contare. È un processo di apprendimento per il bambino. E anche tu devi imparare a dare nel mondo nel modo giusto. È molto, molto difficile. Vogliamo guadagnare tempo, quindi abbiamo il profondo desiderio di fare bene. Proviamo con la giusta intenzione. Qual è la giusta intenzione, Kavanah? Fai qualcosa e in cambio non vuoi ricevere nulla. Quando fai così, ricevi più di quanto avevi dato. A te sarà dato di più di quanto avevi dato. Quando non c'è alcuna aspettativa, i cancelli della luce si apriranno per te. I cancelli della misericordia. E ogni cosa che c'è lì è per te. Ma questo non accadrà quando ti aspetti qualcosa di ritorno. Questo è un grande principio, quindi sii sempre consapevole di questo. È più importante poi conoscere le Sfirot. Questo viene dopo, ma per ora questo principio è molto importante. Continua ad essere consapevole di quel che fai. Lo stai facendo con il desiderio di ricevere qualcosa in cambio? Essere consapevoli di questo? Perché lo state facendo? Forse hai il desiderio di ricevere la luce in cambio per quel che stai facendo? Questo non è altrettanto buono. Quando hai il desiderio di ricevere la luce, sappi che appartiene ancora al ricevere qualcosa in cambio. Fai le cose che devi fare perché il Creatore è grande, perché l'obiettivo della creazione è così meraviglioso. Fallo perché vedi che la luce è la qualità di dare e non avere il desiderio per ricevere qualunque cosa. Fallo perché tu vuoi essere come lui. Lascia che questa sia la tua sola ragione. Vuoi portarti in conformità con la luce. Quando leggevo, mi sono imbattuto in aria. Mi sono attaccato ad Ari. Quando ho letto Ari, ho sperimentato lo spirituale e non ho trovato nessuno nell'intera Kabbalah che mi aveva dato questa esperienza. Naturalmente c'erano kabbalisti più grandi, ma nessuno di loro erano così divini come Ari. Ari è così puro e mentre io leggevo, Ari ho visto qualcosa di straordinario. come ho menzionato prima. Puoi vedere ovunque il nome di Hawaii, il nome di quattro lettere del creatore. È lo scheletro di ogni cosa che esiste. Più tardi studieremo questo. Puoi trovare ogni cosa dietro questo nome Hawaii? A volte pronunciano questo nome come Jehovah o Yahweh. Questi sono nomi molto speciali, li uso per il nostro studio, ma per favore questi nomi non si usano invano. Ci sono quattro lettere. E queste quattro lettere sono qualità. Le prime due lettere, Yud e Hei, hanno la qualità di dare. E la terza e quarta lettera, Vav e Hei, sono la qualità di ricevere. Tutto spirituale, ricevere spiritualmente. Ovviamente in sostanza si tratta di ricevere o dare perché ogni cosa è uno. Ma per rendere più comprensibile per noi l'uso di questi termini. Yud e Hei rappresentano Chokmah e Binah. Tutte le religioni parlano di qualcuno come il Padre. Questo è il Padre che è nei cieli, al quale io stesso sto mirando. Lui è la lettera Yud Chokmah. Lui è la forza maschile. Lui è la diffusione della luce. Ella è la prima Hei e Binah. Lei è la forza femminile e la sua qualità è fare confini, limitare la luce. E anche questa forza è necessaria, divina. Ma quando parlo di Yud so che non c'è confine, solo interezza. Yud El Hei, Chokmah e Binah sono le forze superiori dentro di noi. Si danno l'un l'altro continuamente. Più tardi verrai all'esperienza di questo. Poi ci sono i ricevitori Vav e il secondo Hei. Vav e Zeir Anpin è il secondo Hei Malchut. Secondo Hei è Malchut. Chokmah e Binah sono i genitori. Binah è la madre, Zeir Anpin è suo figlio. Anche questo lo puoi trovare in tutti i tipi di religioni perché proviene dalla Kabbalah. Ogni religione parla della madre e del padre perché, per darci un esempio delle qualità del padre, la qualità del padre è dare. Lui dà sempre. Lui dà a sua moglie, la madre. Qui vedi la stessa collaborazione come nel nostro mondo materiale. Come già sai, non stiamo parlando del nostro mondo, ma un cabalista usa parole del nostro mondo come padre, madre. Chokmah e Binah sono come il padre la madre e Zeirantin e Malchut sono come i loro figli. Ricorda che riguarda tutte le forze. Non fare l'errore di fare qualche immaginazione. Zeirantin è il maschio e Malchut è femmina. Zeirantin è la lettera Vav e Malchut è la seconda Hei. Da un lato sono ancora come i bambini. Zeirantin, la lettera Vav. L'aspetto maschile. E Malchut, la seconda lettera Hei, l'aspetto femminile. Hanno solo sei sfirot. Zeirantin ha sei sfirot, che significano che loro sono nella condizione di Katnut, una piccola condizione. E Katnut significa che c'è mancanza, sono ancora come bambini. Ma quando sono grandi hanno 10 sfirot. E quello che vedremo è la crescita di questi bambini. Ogni cosa è spirituale. Faccio solo per questo uso dei confronti con il nostro mondo materiale. Come nel nostro mondo materiale bisogna essere adulti per generare figli. Lo stesso è per lo spirituale. Nello spirituale c'è anche la necessità di essere adulti per i figli del padre. Solo a causa di questo io faccio uso di paragoni in questo mondo. Ma sto parlando di quello spirituale. Ogni cosa inizia con un piccolo, o con un piccolo bacio. L'eccitazione del maschio e della femmina. Malchut è la sposa che si rende bella per suo marito, Zeirantin. Questo significa tutti i tipi di azioni spirituali in base alle quali diventano adulti e quando sono adulti possono fare zivug e loro possono venire insieme e fondersi l'un l'altro. Ogni cosa riguarda il mondo spirituale, sebbene usiamo le parole del nostro mondo. C'è un detto dei cabalisti. Della tua carne vedrai il divino. Loro videro la connessione tra l'essere qui, nel materiale, con lo spirituale. Loro videro come l'uomo era stato creato con tutti i suoi organi, eccetera, e fecero il confronto con lo spirituale. Le quattro lettere Yud, Hei, Vav, Hei. Yud è il primo Hei, sono i donatori, e il Vav, con il secondo Hei, sono i ricevitori. Qui è dove riguarda tutto il dare e ricevere. Sappi, tutto è buono, ricevere è buono e dare è buono. La questione è la tua intenzione, come ricevi e come dai. Dando in un certo modo può diventare ricevere. Ma quando dai e ti aspetti qualcosa in cambio, in sostanza, esso è visto come ricevere. Quel che conta è la tua intenzione. È importante essere molto seri con questo. Non c'è posto per la commedia. Dall'interno deve esserci la vera intenzione. Intenzione, Kavanah, significa tutto nella Kabbalah. Più pura è la tua intenzione, più velocemente andrai avanti. Con la giusta intenzione, Kavanah, ti purifichi. Qual è la giusta intenzione? Qual è la giusta intenzione? Che tu non ricevi nulla in cambio per quel che fai. Dal momento in cui inizi seriamente con la Kabbalah, questo deve essere nel tuo cuore. Dare senza alcuna aspettativa di ricevere qualcosa in cambio. Certo, è difficile, sembra impossibile, ma devi farlo, devi provarlo. Considerando le prime due lettere, lo Yud e la prima Hei, il Vav e la seconda Hei sono ricevitori. Tutta la luce viene da Yud. Yud, Chokhmah, Da, Binah, prima Hei. Chokhmah, Da, Binah. E Binah dà ai suoi figli Zeir Anpin e Malchut. Vav, dà a Malchut. In un certo senso Malchut è la corona di ogni cosa. Lei è la corona dell'intera creazione. Lei è la vera creazione, la piena creazione. Gli altri sono punti di forza necessari perché sono qui per aiutare la Malchut. La Malchut è la creazione. Questo lo possiamo vedere anche nel nostro mondo, uomo e donna, che lui dà a lei. Considerando la moglie e la sposa, lui è il donatore. E lei è l'essenza della creazione. Perciò un uomo deve dare a sua moglie in maniera adulta. Non come un bambino, e abusa di lei. Non come un maccio, che solo riceve per lui stesso. Anche gli uomini devono diventare persone adulte. Cosa significa questo dare? Io do un esempio e chiedo ad uno degli studenti di farsi avanti. Supponiamo che io sia il donatore. Quindi devo sempre sapere perché io do. Lo devi conoscere all'interno del tuo corpo, in tutti i tuoi organi. Qualunque sia la ragione, quando tu dai, hai dentro di te Avaya. Lasciare che valga la pena le cose che tu dai, sai che esse hanno a che fare con queste quattro lettere Avaya. Quando io do sono il Yud, è Hei, il padre e la madre. Yud è la prima, Yud è la prima Hei, sono i punti di forza più alti da quello che io suppongo di dare. È il ricevitore. Riceve cosa ho nella mia mano. Ciò che è nella mia mano è Yud. Yud è Chochmah, luce. Quello che voglio dare è la prima lettera Yud. Quello che do non importa. È Yud, Chochmah, luce. E Binah, cosa fa Binah? Lei fa un limite. E puoi vedere questo mediante la mia mano. La mia mano è la lettera Hei. Abbiamo tutti bisogno di uno strumento per dare, una scatola o qualsiasi altra cosa. Devi mettere la luce in qualcosa. C'è solo luce, e Kli. Chochmah e Yud, il regalo. Io voglio dare e Binah, Hei, e il palmo della mia mano. Nella mia mano tengo il regalo. È un paragone, eh? La luce Chochmah è nella mano Binah. È quello che io do è femminile. È lui che riceve, deve dare due cose. Deve fare due cose. Il suo braccio superiore è Vav. E la sua mano è la seconda Hei. Questo è molto speciale. Questo ho trovato in uno dei sacri libri di Ari. Prova a sentire questo e gioca con esso. In questo modo impari cosa intendo con intenzione. Metto qualcosa nella mano dell'altro, cosa significa? Poi c'è la fusione, lo zivug, l'unità di Havaya. Quando le nostre mani si toccano l'una con l'altra, noi abbiamo unito il Creatore attraverso il mio dare e il suo ricevere. Anche il ricevitore deve ricevere con la giusta intenzione. Quando lui riceve, la sua mano fa un limite. Non importa ciò che l'altra persona può pensare, deve ricevere con il suo Vav. Ed Hei. La sua mano è Malchut. Lei è la ricevente e tramite questo portiamo insieme il nome del Creatore. E quando lo fai in modo sincero, tu lodi la forza creatrice. In questo modo, ogni volta che fai questo, imparerai a dare con la giusta intenzione. Non c'è di più. Solo questo dobbiamo considerare. Questo è dove sta tutto. queste quattro lettere Havaya. Unite queste quattro lettere Havaya. Loro sono i punti di forza di alti, più alti, le forze che danno e i punti di forza che ricevono. Iude è quel che dai. Iude è luce, piacere e benedizione. Qualunque cosa tu dai è Yud. La prima Hei è Binah. E lei fa il limite. Yud e Hei sono sempre insieme, sono sempre in perfetta armonia. Il Vav e la seconda Hei a volte sono in armonia e talvolta no. Che cosa significa armonia perfetta? Quando loro hanno i 10 sfirot, è perfezione. Quando sono di meno, per esempio, solo 7, loro non possono fare figli. Lui non può dare perché c'è mancanza, e quando c'è mancanza non c'è zivug. Tu non puoi fare figli senza zivug. Tutto è spirituale. A volte il Vav e Hei sono in accordo tra loro e talvolta non lo sono. Questo è qualcosa che tu devi sentire. Quando tu dai, hai qualcosa nella tua mano. Quel che è nelle tue mani è come luce. E la luce è Yud. Binah è il palmo della mano in cui è il regalo, la luce. E l'altra persona ha il suo braccio superiore che è il Vav e la sua mano è la Malchut. Io sono quello che dà e lui riceve. Ed entrambi uniamo le quattro lettere Havaya. Questo è il nome del creatore e noi uniamo il suo nome. Entrambi sono importanti. C'è il dare e c'è il ricevere e li riceve perché io sono il donatore. E il ricevente dà perché lui riceve. Io faccio a lui un favore e quando lui riceve un regalo. Sii molto consapevole quando ricevi un regalo. Un regalo. Naturalmente in questo modo le persone ti danno un regalo e si aspettano qualcosa in cambio. È il tuo compleanno e ti do un regalo e quando è il mio compleanno voglio che tu dai a me un regalo in cambio. Certo, anche questo è buono. Fa parte del processo di apprendimento. Ma le tue intenzioni devono essere diverse da questo momento. E ovviamente noterai la parte egoistica in questo, ma devi sapere anche questo è buono. Devi ricevere in questo modo è ciò che è al di fuori di te, vedilo come il creatore. Non spetta a te giudicare come lui deve dare, o in modo egoistico o in modo altruistico. Questo non ti è stato dato. Mai. e intendo davvero mai giudicare altre persone. Ci sono molti esempi per sapere se cosa è buono o no. La forza di Avaya è una forza universale. La sua gente lo aveva trattato molto male a Mosè. Perciò Mosè disse al Creatore: «Sono in mezzo a questa nazione». Questa testarda nazione, ma essi hanno una bocca sporca con lettere sporche. Erano sue parole. Significa che spettegolano molto. E per questo è stato punito. Non una punizione come noi conosciamo, ma la sua anima è dovuta tornare. Doveva ritornare per correggere quello che avevo detto. Ha dovuto soffrire, mentre invece lui pensò di aver fatto bene. Naturalmente l'intenzione era buona, ma tu devi sapere, una persona più va in alto, più è responsabile nel mondo materiale come nel mondo spirituale. Parlo di Mosè. Devi sapere che il Creatore è molto particolare con gli tzaddikim, con i giusti, coloro che sono con la giustizia, con le persone che sono vicino a lui. In un certo senso la punizione per loro è più severa. Non una punizione, ma qualcosa nel modo di correzione. Mosè aveva detto: «E tu mi hai dato questa nazione». E un'altra volta lui disse che la nazione era come un asino. E il significato dell'asino è molto, molto testardo. E Mosè ricevette molte correzioni per queste parole. Anche quando pensi in questo modo, sappi che il pensiero è pessimo come quando lo dici. Non pensare mai come uno che giudica gli altri. Mai dare un giudizio riguardo le loro intenzioni. Questo è molto importante. Questo è l'ostacolo. Non c'è persona, me incluso, che non abbia peccato con questo. Prova, cerca sempre di non giudicare le altre persone, né dall'interno né dall'esterno. Quando lo fai, andrai avanti molto velocemente. Forse hai ancora la sensazione di giudizio, ma quando senti di voler giudicare qualcuno, fermati dal farlo. Di a te stesso: «Ho imparato che tutto il giudizio è sbagliato. E mi manca la forza, ma non lo farò». Lentamente riceverai la seconda natura. La tua prima natura non si spezzerà e la seconda natura diventerà sempre più forte. La prima natura non scomparirà mai Così tu puoi pensare di essere diventato un santo. Cosa significa un santo? Quando hai la giusta intenzione. Quando puoi fare ciò che è dato sopra, sei un santo. Allora diventi un santo. Quando vedi le persone che agiscono come un santo, ma le senti spettegolare, riguardo altre persone, sappi che non c'è niente di divino in loro. È lo stesso per il pensiero, sebbene tu non puoi mai sapere cosa stanno pensando gli altri. Quindi mai parlare o pensare male. Una persona religiosa sa che lui non può parlare male riguardo altri, ma questo è anche un valore per il pensiero. Questo è lo sforzarsi per la verità. Non parlare male e non pensare male. Quando noti che vuoi parlare o pensare male, fermati subito. Nel momento in cui noti che puoi pensare o parlare male, diventa consapevole di un segnale. Un segnale deve essere lì. Un segnale così tu puoi fermarti. Forse puoi pensare, ma questo non è per me. Ho già superato questo. Sai che stai giocando le commedie con te stesso. Questo riguarda tutti noi. Essere onesto a te stesso e non pensare mai quanto lontano possano essere le altre persone. Non lo saprai mai. Non puoi sperimentare i suoi chili. Quindi non pensare mai riguardo a essi. Quando una persona, un assassino, un ladro, fa cose e tu pensi che abbia torto, non spetta a te. Naturalmente riceverà una punizione secondo le nostre leggi, ma mai, mai dare il tuo giudizio. Stai molto attento con questo perché questo è molto cruciale. Anche la carità è una cosa con cui stare molto attenti. Perché dai la carità? Ti piace? Ti senti bene quando dai soldi? La carità viene dal tuo cuore o stai ingannando te stesso? Pensa in questo modo. Qualunque cosa è fuori di me è il creatore. Quello che vedo al di fuori di me, io vedo il creatore. Vedo ovunque Havaya. Mi manca la comprensione, ma credo che questo è il nome eterno dell'eterna forza creatrice. Voglio unire questo nome, lo Yud, è il primo Hei con il Vav e poi il secondo Hei. E quando provo questo sto lavorando su me stesso. Questo è il lavoro eterno. Questo lavoro sarà visto dall'alto. in un modo sarà scritto sopra il tuo conto dall'alto. È scritto nella Torah: colui che dà, a lui sarà dato. All'inizio non riuscivamo a capirlo, e anche oggigiorno c'è poca comprensione riguardo a questo. Ma ora sai cosa si intende con dare, unendo il santo nome. Tu verrai anche all'esperienza dell'unità. E questo è ciò che si intende con e anche a lui sarà dato. Ogni volta che dai in questo modo sarà scritto sul tuo conto eterno. E tutte queste piccole somme saranno lì per sempre e non saranno mai perse.